avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire. Scrissi mezz'ora fa circa nell'intestazione del mio profilo Facebook: botte d'orbi, quante ne avete prese dai vostri genitori, quante ne avete restituite ai vostri figli? Vi do un rapido assaggio delle prime risposte. Paola: ne ho prese anche troppe, non ho mai alzato le mani su un bambino. Gaetana: tante da mio padre, roba da telefono azzurro, a dir poco, qualche sculacciato ogni tanto, mia figlia se la becca. Giulia: a volte me le ricordo quando sono tornata a sbronza a 15 anni, quando mi ha trovato le cartine in tasca, mio figlio qualche schiaffetto. Edoardo: mai prese tante, un bambino non si tocca mai, un gesto indipendentemente dall'ore fisico e via dicendo. Quest'altra, Manuela: mia madre tante, fino al terrore, perché non mangiavo. Da mio padre però, che insieme a mia sorella non sono mai intervenuti per strapparmi alle mani mia madre. Ricordo che non provo ancora rancore per lei, anche se porto i segni della loro croce nei miei disturbi alimentari. Andando avanti, ce ne sono tanti, ma guarda, in pochi minuti. Maria: prese, dico solo che mia mamma aveva sempre bisogno di nuovi cucchiai di legno, si rompevano facile facile sul mio povero sederino. Ecco, io questa mattina ho avuto fare un test, ma un rozzo test, perché io ricordo, giovane fanciullo degli anni 50, che le botte se ne prendevano tante ai miei tempi. In prima elementare, seconda e terza elementare avevo una maestra con una lunga canna che ci bastonava con la canna. Voi direte: ma impossibile, tu sei un uomo contemporaneo, parli di internet, parli di protesi emozionali. Sì, a me la maestra mi menava con la canna, tornava a casa, c'era la maestra, mi ha menato, mi diceva: mia madre, bene, ti do la giunta. Era così. Picchiare i figli è una cosa normale. Ricordo ancora una volta un tourbillon intorno al tavolo di cucina con mio padre che mi correva dietro, mi voleva menare, beh, non era sangue, poi mi menicchiava, ma allungò un calcio, ho ancora una specie di soprosso nell'ultima vertebra, c'è una bozzettina, sembra quasi l'inizio di una coda. Fu quel calcio, un ricordo di mio padre, ma non è perché fosse cattivo, era normale. Io memore delle, non tantissime botte, ma le bottine che si pigliavano. I miei amici che avevano i genitori probabilmente un po' meno culturalmente elaborati rispetto ai miei, le pigliano proprio toste. Io mi ricordo, venivano con gli occhi neri, mostravano gli oggetti della cucina che si trasformava in una camera delle torture con cui venivano menati, mestoli, padelle, i vari attrezzi della campagna erano perfetti. Mi ricordo la corda con cui si teneva il cesto, il crine per fare l'erba, legata a un gancio, impugnata, diventava una specie di nunciacu perfetta per picchiare i bambini. E si favoleggiava su quella con l'altra maestra i tipi di lesioni permanenti che procurassero. Mi ricordo, dice: mio padre con la maestra lì fa un buco in testa così, e tutti spaventati, e menicchiava la maestra, ci picchiava. Mi ricordo c'era un gabinetto La Turca, prima elementare, anno 1961, centenario di Unità d'Italia, facciamo le bandierine tricolore, però la maestra, per insegnarci che il gabinetto La Turca bisognava usare una perizia nel centrare proprio la parte centrale, di fronte coram populo, di fronte alla classe schierata, prendeva il piccolo lordatore e gli appoggiava la faccina fino proprio al limite estremo di quella turca. Non è, sto parlando di paesi arretrati di altri secoli, sto parlando di un signore che vi parla alla radio anche di cose legate alla propria contemporaneità. Quindi questa mattina è la definizione del passo avanti di civilizzazione che abbiamo fatto noi, che i nostri figli li meniamo. Io, figuriamoci, sì, gli avrò dato qualche sculacciata, ma ho più ricordo del mio polso slogato, del mio palmo della mano dolorante, le mie dita fratturate. Sono durissimi i bambini, non perché non ci provo nemmeno più, non esiste, poi non ne ho avuto bisogno, sono in questo un padre fortunato. La vicenda è che tratta dalla cronaca che un padre italiano che era andato in Svezia, un signore di Canosa in Puglia, in Svezia non si sa bene perché è controversa, sembra Rashomon, cosa accadde, insomma è stato condannato a 700 euro di multa, è stato anche qualche giorno arrestato perché pare che avesse menato il figlio. L'incubo di Giovanni Colasanta, il consigliere comunale di Canosa, arrestato a Stoccolma il 23 agosto per uno scappellotto al figlio dodicenne, è finito. Riottenuto il passaporto è subito rientrato in Italia, all'aeroporto romano di Ciampino. Confido nella magistratura svedese e sono convinto che ne uscirò pulito da questa storia. Cosa le ha fatto? Come si chiama l'esperienza in questa situazione? Di questa situazione, aver dovuto lasciare i bambini e aver visto loro piangere perché non sono andati in crociera, perché hanno dovuto rinunciare loro alla vacanza. La sentenza è attesa per il 13 settembre. La legge svedese per uno schiaffo al proprio figlio prevede una pena massima di 2 anni di carcere, ma l'avvocato di Colasanta rassicura. Si tratta di un equivoco, di una vicenda di una banalità unica che poteva essere risolta sicuramente con un po' di buonsenso. Sì, un po' di buonsenso, però ci sono varie fattispecie in questa storia. 800 24 0024, intanto cominciate a telefonare, portatemi la vostra esperienza di bambini picchiati, malmenati, amorevolmente corrette dai genitori, e la vostra esperienza dei genitori, so già ancora ha senso dare delle sanzioni tipo fisico ai propri figli. In Svezia evidentemente sono abituati a ben altra cosa. Chi ha presente la trilogia di Stieg Larsson ricorderà la figura di Lisbeth Salander, bambina stuprata, violentata, bastonata, gli hanno fatti tutti i colori i vari tutori a cui veniva affidata, alla fine si è vendicata in maniera anche molto molto colorita, molto fantasiosa con il suo torturatore. Ricordiamo Pippi Calzelunghe, che naturalmente nessuno poteva toccarla perché era fortissima, ma gli svedesi evidentemente hanno nel loro DNA il fatto che gli italiani siano dei cattivi. Infatti sembra che la folla inferocita verso questo padre pugliese, che secondo le varie versioni ha picchiato il figlio, lo ha schiaffeggiato, gli ha urlato insultandolo, lo ha sollevato per i capelli, pare che il bambinello pesasse 50 kg, quindi aveva anche una forza ercula questo signore. Comunque va, lo svedese ci guarda come un popolo arretrato perché picchiamo i figli. Ma è vero che noi picchiamo i figli? È vero che mettiamo le mani addosso ai figli? Posso dire che fino a un paio di generazioni fa le mani addosso ai ragazzini si mettevano volentieri. Perché? Perché la frase tipica era: fa più male a me che a lui. Su questo avevo qualche dubbio, lo faccio per il suo bene. Cristiano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Lei ha subito, è stato menato in gioventù? Sì, infatti chiamavo per questo. Ecco, mi descriva con dovizia di particolari le tecniche educative dei suoi genitori. Sì, ora non è che le faccio 120 giornate di Sodoma. No, però... no, vabbè. No, normalmente io sono una famiglia normalissima, ma mio padre ha avuto un'educazione, era primo in una famiglia molto numerosa, molto all'antica. Ovviamente ha un po' trasmesso su di me quelli che lui riteneva, la giustifico in questa maniera, i valori appunto di una sana buona educazione, col fatto che tra virgolette non ho neanche un bambino particolarmente agitato, soltanto che può immaginare, non so, il capriccio piuttosto per non mangiare una cosa o che ne so, dai, dico di fesserie che stavano da ragazzini. Sì, noi pensavamo che di essere bambini cattivi perché non mangiavamo, i genitori ancora assatanati dalle carestie, dalle guerre, dalle fami, lo consideravano una delle blasfemie più profonde il fatto che non mangiassimo, non ci andava la fettina. Noi la carne la vedevamo una volta l'anno, voi non mangiate la fettina, e giubbotte, va bene. No, appunto, questa è una cosa, però io... Forse per un fatto di sensibilità, non lo so, perché è una cosa che ho molto subito, cioè me la sono trovata poi il rapporto con mio padre, quando sono arrivato a un'età in cui le botte non solo non le ho prese, ma ho iniziato a darle, non a mio padre naturalmente. Beh certo, poi quando i figli crescono è un po' difficile, sì. Però ecco, lì infatti caratterialmente... uno per pietà, per far contenti i genitori, le prende lo stesso, ma sono carezze, il vecchietto che ti mena o la vecchietta che ti mena ti fa ridere. Mio padre non era tanto vecchietto, c'era poca differenza tra noi, però... Beh, una ventina d'anni ci saranno state. Ecco, appunto, quindi diciamo che io già a 17 anni lui aveva un po' più o meno l'età mia. Vabbè, è stato concepito... per grazia divina si sposava abbastanza presto, sì, vabbè. Quindi no, il discorso era comunque che caratterialmente questo io oggi ne porto i segni, perché non accetto nessun tipo di... Ma porta i segni dal punto di vista delle lesioni o i segni interiori? Interiori, interiori. Solo uno, ma è stato un incidente però non ha causato da suo padre? Sì, no, è stato uno schiaffo che mi ha fatto sbattere contro uno spigolo, una piccola cicatrice, ma niente. Ah, quindi porta una cicatrice in faccia, come Harry Potter, però invece che essere stato Voldemort è stato suo padre. Ma penso che ogni tanto ci vorrebbe, però dipende da quando glieli devi dare sti schiaffi, nel senso che nel momento opportuno, perché se no non valgono a niente. È giusto, il papà può dare uno schiaffo al figlio. Quindi secondo lei la legge scandinava è severa in questo caso? È troppo severo. Anche le botte si possono dare ai figli, perché no? Che vengono più educati i figli così. Al mondo ad oggi non si può nemmeno toccare un figlio, adesso no, non è possibile adesso. È eccessivo, poi dipende di schiaffo come ce l'ha dato, se erano schiaffi o schiaffoni. Ecco perciò, no? Alle mie latitudini facevano la differenza fra lo schiaffo e il nocchino. Il nocchino è quello dato a mano chiusa facendo sporgere il dito medio come fosse una sorta di aculeo, e si dava proprio sulla nuca creando dolorosissime sensazioni e lasciando anche qualche segno. Poteva essere ampliato il potere del nocchino mettendo una grossa chiave all'interno della mano. In realtà si fingeva dare una carezza al bambino e gli si dava la chiavata in testa. Stefania, buongiorno. Ah, buongiorno Nicoletti. Senti, io volevo dire che sembra che nessuno in realtà tocchi più questi figli, se ci confrontiamo, se parliamo con gli amici, eccetera. Io invece volevo dire proprio che invece gli emendano come i figli, però non lo dicono, cioè in pubblico sono genitori modello. Quindi politicamente corretti in pubblico, educazione montessoriana, in privato gli danno sotto. Io ho la mia migliore amica con la quale sono cresciuta, insomma siamo laureate, eccetera, che in pubblico è perfetta, nel privato questo bimbo di 10 anni se dice non ho più fame, giù schiaffoni. E io sono, come dire, gelata da queste uscite. Guarda, le dico solo una cosa, Stefania, c'è una ricerca di Save the Children che ha fotografato la situazione dei sistemi educativi nelle famiglie italiane e dà conferma quello che dice lei. Il 25% dei genitori italiani tira sui figli a suon di ceffoni e sculacciate. Di loro una parte più esigua, il 2% usa le mani quasi tutti i giorni, mentre il 23% lo fa qualche volta al mese. Una media del 19% dichiara non capire che non capita mai di ricorrere allo schiaffo e essere decisamente contrario a fare questo tipo di educazione. Quindi ha ragione. In particolare, sono botte reali, forti, schiaffi? Perché sì, sono schiaffoni che spaventano me, mi ricordano i miei di mio padre, che io ripeto, crescendo ho detto non succederà mai, io infatti no. Ma la mia migliore amica, con la quale condivido un pensiero, perché ho circa 20 anni, da questi marrovescia sto bimbo perché dice deve crescere bene, e lo giustifica così. Io adesso aspetto che ci sia un genitore oggi in trasmissione che chiami e dica sì, io gliele do di santa ragione quando non vuole andare a letto, cioè, ma non lo sculaccione che sembra una cosa anche così. Sì, perché lo sculaccione onestamente fa molto rumore e fa poco danno, con la guancia rossa e tutto quello che le botte in faccia non andrebbero mai date. Mai date, però voglio dire, cioè, se lei che in pubblico comunque la conosce, cioè, se uno mi avesse detto, sai che lei ti chiama, mi avrei detto no, ci metto la mano. Anche perché sa com'è, io lo dico per le esperienze padre, è un'escalation. Se uno comincia con lo schiaffo, sì, poi deve andare avanti con la bastonata per avere l'effetto. L'autorità, secondo me, che è giusto che ci sia, perché odio l'idea del genitore amico o fratello maggiore, deve essere imposta attraverso un comportamento costante. Non bisogna fare la violenza una cosa, l'autorità un'altra, lì c'è la psicologia del terrore, un genitore autorevole, un vabbè, questo è molto importante, coerente. Quindi anche in famiglie di livello culturale elevato e di articolazione di pensiero raffinata, in realtà nel privato si sfogano istinti ugualmente derivanti da frustrazioni, nevrosi. Non voglio entrare in campi che non sono i miei, ma una madre che picchia selvaggiamente i figli ha qualcosa che non funziona, lei per prima. Sandro. Buongiorno Nicoletti, sono Sandro da Bologna, 44 anni. Niente, ascoltando la sua trasmissione mi sono risvegliati i ricordi di mio padre quando ero piccolino, che lui usava soprattutto la ciabatta e la cintura dei pantaloni. Ecco, entriamo adesso in un campo molto più articolato, gli oggetti, perché picchiare con le mani può essere un momento distinto, ma esiste una rassegna ben precisa di oggetti contundenti impropriamente usati per correggere i figli. La ciabatta è uno di questi. La ciabatta felpata modello Umarell di velluto, sì. Costine Umarell, perché essendo di Bologna. Però dalla parte della suola o dalla parte delle costine che fa meno male? Della suola. Della suola naturalmente. Poi magari la suola era anche di cuoio molte volte, perché io bene o male erano gli anni 73-74. Andava quel tipo di ciabatta quegli anni. Le Crocs ancora non le avevano inventate, che non fanno nessun assolutamente male. Assolutamente no. E poi in più l'ultimo episodio così a scuola, cioè lei diceva che la sua maestra usava la canna, la nostra usava direttamente le mani. Mi ricordo un episodio di una mia compagna, ero in quarta elementare, che sbagliò una tabellina, la maestra la prese per i capelli e la sbatté 4-5 volte la testa contro il muro fino a non fargli capire niente. Esamine, questa ragazza cadde. Io penso ci fosse proprio una disciplina marziale fra le maestre, con vari gradi e cinture nel saper menare i figli, perché ogni maestra aveva le sue specialità. Io ho fatto una scuola rurale, però mi ricordo, ogni maestra aveva le sue specialità e c'erano... Adesso diranno che dico facezze, che mi invento, ma l'inginocchiamento sui grani di Gran Turco, io l'ho visto, me lo ricordo. Veniva chiesto poi ai ragazzi, quelli che erano la campagna, di portarli, quindi c'erano questa sorta di infami degni del toro di Falaride, che è questo personaggio classico che inventò per il tiranno, il toro di bronzo che ululava se ci mettevano le vittime dentro. Il primo a provarlo è stato lui, gli hanno acceso il fuoco sotto e il toro ululava. Castigo era anche mettere i polpastrelli, non so, unire i polpastrelli tutti e cinque a mano alzata e la maestra con righello dava le botte sui polpastrelli. Sì, un dolore veramente inimmaginabile. Esatto. Ma io ricordo che invece la scelta era prendere le righellate sul palmo della mano o sul dorso. Uno metteva i palmini, dice no, gira le mani sul dorso e faceva molto più male. Sembra che parliamo di cose che appartengono ad altri secoli, ma parliamo di esperienza di persone viventi. Riccardo. Buongiorno Nicoletti. Eccolo. Eccomi. Sono in viaggio, stavo ascoltando e il suo spunto mi ha fatto venire in mente due aneddoti divertenti che riguardano la mia famiglia. Sì, che poi posso dire una cosa, Riccardo, a posteriori, a distanza di 20 anni, 30 anni, le ricordiamo con nostalgia, con sorriso, con divertimento. Io non ricordo il dolore, lo ricordo con un aneddoto, cioè ho quasi la fierezza di aver passato un periodo di storia arcaico che nessuno ricorda, questo mi diverte. Nicoletti, devo chiedere scusa, ma ho sentito molto male, sono in viaggio, forse... Sì, no, vada a raccontare la sua storia, non si preoccupi, non ho detto nulla di importante. Adesso la sento. Allora, due cose divertenti. La prima, siamo nel sadismo. Famiglia dei nonni materni, parlo di due generazioni fa, entroterra genovese, persone che, come diceva lei, hanno fatto un certo tipo di vita e quindi... si manifestavano coi nipoti anche in un certo modo. Vabbè, devono farla scontare ai nipoti che non hanno fatto la guerra, certo. Assolutamente. Ricordo queste estati al paesino, circondato da cugine e cuginetti, quelle orde di bambini più o meno incontrollabili, e quando io mi avvicinavo a dei trogoli, che erano un po' il sito tabù di quel paese, ogni paese ha un sito in cui non bisogna andare, o è la casa abbandonata, o sono i trogoli perché c'è il rischio di cadere. È pericoloso, non si fa una bella fine. Assolutamente, io facevo quell'angolo perché puntualmente andavamo a giocare dai trogoli e quando mia nonna, per l'intelligence del paese, lo sapeva, me la vedevo l'immagine di questa donna anziana, gentile, elegante, una famiglia di valori, devo dire la verità, questo poi alla morale all'ultimo, però che mi aspettava con quella che noi chiamavamo la trappetta, ovvero un ramo di vigna, un ramo verde fresco di vigna, c'erano molte vigne, privato delle foglie, che già si agitava nell'aria come un frustino. E mi ricordo... Pensi se non fosse stata una donna gentile come la descrive lei. Pensi un po'. Ma avrebbe usato il filo spinato o non so... Vabbè. Ma gli anziani con certi valori erano capaci di dicotomie esagerate, secondo me, cioè c'erano delle parti fortemente contrastanti. Scusi, si usava il questo mi interessa, che dobbiamo fare una mappatura degli oggetti di correzione. Nelle mie contrade in Umbria si usava il venco, che sarebbe il giunco, che serviva per legare le viti. Una volta potate, per legare le viti si usava il giunco, che fresco faceva molto male, era una sorta, immagini un giunco bello flessibile, era uno scudiscio terribile. Assolutamente, credo che l'effetto fosse più o meno lo stesso. Sì, lasciava i segni. Verde fresco, lasciava dei bei segni rossi dietro le gambe, nelle pieghe delle ginocchia, sotto i pantaloncini corti. E quello, diciamo, ha avuto il suo effetto pedagogico a distanza di anni. E poi volevo aggiungere invece un'altra cosa, una riflessione che forse la lascia più delusa dal punto di vista del sadismo e dei mezzi, però l'esperienza di mio padre. Mio padre era una persona semplice, un operaio di cui mi ricordo, non c'è più, mi ricordo le mani grosse, virili, asciutte. Mi ha dato uno schiaffo nella vita e quello schiaffo ha avuto un valore, un potere pedagogico insieme al sistema di valori e a tutti gli strumenti dell'educazione. È quello che stavo dicendo io all'inizio, adesso io posso anche giocare e dir facezze, ma capisco perfettamente quello che volevo dire. Il picchiare in maniera continuativa e cercare sempre strumenti per far più male significa che manca proprio il principio fondamentale dell'autorità e dell'autorevolezza verso i figli. Quello schiaffo l'ha ricordato bene. Solo l'idea delle mani grosse e callose di suo padre per lei erano motivo deterrente sufficiente. Sua nonna aveva bisogno di frustarla continuamente, perché alla fine la ricorda come una figura sì tenera ma quasi da macchietta. Non vedeva in lei un'autorità, vedeva una signora anziana un po' cattiva che la prendeva a frustate. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. È stato Gavin! È stato Gavin! Prendi l'altro secchio. Gavin. Un padre padrone, naturalmente. Si parla degli anni 40, si parla della Sardegna di Gavino Ledda, quindi è chiaro che ancora volassero botte. Ma quello che a me meraviglia è leggere gli sms e messaggi su Facebook, soprattutto è un fiorire di torture, di botte, di sevizie, di oggetti impropri. Mi sono veramente meravigliato, io pensavo ci fosse qualcosa a tirar fuori, ma non pensavo fino a questo livello. Un ramo dell'albero di nocciole, la canna dell'acqua dell'agronocerino, un altro che dice che è rimasto sordo per uno schiaffo del padre, le ciabatte pare che siano le più usate, mi dicono anche i vari tipi di ciabatte, il battipanni, sberle, scapaccioni, botte, nonni, zii, genitori, insomma è vero, c'hanno un po' ragione gli svedesi, siamo un popolo di menatori di figli. 800240024, lo siamo e ci ridiamo anche sopra. Che te già sa scrive? Sì, ma però guarda che brutta pena che c'ho. Tarquini, che è mio compagno di banco, ce n'ha tante e una tutta d'oro. E rubegliela, no? Non mi impara a rubare, eh? Che t'ha imparato il babbo a da ste pizze? Che motte don persona... E lascia starmi fio, capito? Che motte faccio vedere io? E ti ma che vizi è famiglia qua? E ti è questa tuta che te l'ho asciugata? Angela! Sì, vengo! Te faccio vedere io. Bombolo, uno dei personaggi chiave della Cineteca del professor Chiappini, normalmente aveva questa gag ricorrente dello schiaffo enorme, frastornante, fragoroso che dava al figlio per educarlo, in questo caso per educarlo a rubare. Roberto, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Lei ci può aiutare con una sua esperienza familiare? Sì, io sono sposato da 15 anni con una persona svedese, mia moglie svedese, metà finlandese. Diciamo che io vorrei spezzare una lancia a favore appunto dei popoli nordici, perché no, io da metà pugliese e metà milanese ho difficoltà a capire effettivamente il popolo in cui io vivo. Se l'hai sposata, nessuno lo obbligava. No, le spiego perché. Il fatto di quello che è successo al mio, diciamo, compaesano, che è rimasto stupito che è rimasto stupito del trattamento che ha ricevuto dalla polizia svedese, le dico che io appunto posso capire benissimo il popolo svedese, le spiego perché. Ho due figli, una di 9 anni e uno di 3 anni. Le posso assicurare che i miei figli sono completamente, diciamo, un po' diversi dai figli normali, perché il principio su cui si basa il popolo svedese è eliminare completamente il capriccio, cioè loro non sanno neanche cosa sia il capriccio dei figli, ma incominciano molto presto. E le posso raccontare degli aneddoti per far capire la differenza proprio di mentalità. Il bimbo di 6 mesi, o la bimba di 6 mesi, di un anno, che piange all'interno di un lettino, la mamma svedese si alza, solleva il bimbo o la bimba. Se la bimba smette di piangere, perché era solamente annoiata, la mamma svedese lo rimette direttamente nel letto, chiude la porta e lo lascia frignare per tutta la notte. Alla seconda notte il bimbo non frigna più. Sì, io la mamma italiana si alza 4 volte per notte. No, ma c'è di peggio. Io parlavo con un amico padre di recente data, Gli stavo dicendo che in effetti il figlio a un anno di vita è un po' esagerato e continua a dormire in camera con i genitori. Ci sono persone che tengono i figli in camera fino a 7, 8, 9 anni, poverini, e non so che vita coniugale possono fare quei genitori con il piccolo ricattatore, con il vampiro di affettività chiuso in camera, però noi siamo fatti così. Poi lo menano, è chiaro che lo menano, c'è una rabbia nascosta dentro di 10 anni di trombate coniugali non fatte, che è logico che poi se devono prendere con qualcuno. Esatto, e questo fatto del dormire, mia moglie per esempio lascia il bimbo, che va bene, è incominciato presto, 2 anni, in camera sua, il bimbo anche se frigna, cioè non lo porta assolutamente nel suo letto, piuttosto si alza lei le prime, non so, 2 volte, va a vedere che cosa ha, ma piuttosto si alza lei dal letto, ma assolutamente un bimbo svedese difficilmente entra nel letto del... Sì, io non ho modelli comunque, adesso glielo dico con bonarietà, ma perché è il mio punto di vista, modelli di perfezione familiare, se no Larson non sarebbe diventato così famoso anche alle nostre latitudini, dietro questi comportamenti, non è solamente il caso della sua famiglia, si nascondono spesso delle mostrificazioni ben più gravi, io ho citato Lisbeth Salander, ma a me fa paura quello che c'è dietro questa organizzazione così perfetta e gelida dell'educazione. Questo è il mio punto di vista, suscettibile di ogni critica. Antonello. Buongiorno, dottore. Eccomi qua. Come sta? Tutto bene? Complimenti intanto. Tiriamo avanti, la poveri vecchi. È sempre divertente. Io faccio parte di quella categoria di disfrattati mancini che quando si andava all'elementare all'età mia eravamo considerati... Ah, la mano del diavolo. Quelli della mano del diavolo. Io guardo, io per l'R moscio ho subito altrettante torture. Per 5 anni di elementare ho provato a farmi dire la R normale, non sono mai riusciti, non so che fa. Sì, sì, poi della serie è obbligato a tenere la mano dietro la schiena. Sì, la legavano, io mi ricordo la mano legata, una povera legata, bambina sì. Mancina legata. Con la mano legata. Veniva la maestra con una fascia e gli legava la mano. Stava lì, poverina. Questa sorta di impotenza, no? Perché quando si tentava di reagire e si diceva magari a voce, la signora maestra... Una volta venni addirittura, mi venne tappata la bocca con dello scotch. Perché lei quanti anni ha, Antonello? 48. Quindi 48, è anche più giovane di me, quindi non 72. È che io parlo di un'epoca preistorica. No, sono ancora abbastanza fresco, diciamo, se vogliamo, quindi sono vivente e posso raccontarlo che... Bocca chiusa con lo scotch. 700, con lo scotch. Con lo scotch. Con lo scotch, quello da che si usava a scuola, il trasparente, che poi tra le altre cose non aveva nessuna presa, no? Però il timore fuori di aprire la bocca... Beh, poi hanno inventato quel nasso adesivo che vediamo nei film polizieschi in cui immobilizzano gli ostaggi. Beh, insomma, quello argentato, quello tiene bene. Era meno, diciamo, come posso dire, così, meno sonoro. Ma io ricordo il pepe in bocca, quando c'ero stupido, mia nonna mi mette una manciata di pepe in bocca. Vabbè, ma ognuno no, ha ma la cosa che terrorizzava di più era che poi c'era un rapporto, diciamo, di comunicazione tra l'insegnante e i genitori che era molto pericoloso, nel senso che il papà veniva a scuola, no? E quindi davanti a tutta la classe venivi praticamente maltrattato e educato secondo i loro format, praticamente davanti a tutti, quindi ti dovevi sentire per forza, capito? Guarda, io a questo punto della mattina le ricordo. Non c'era niente da fare. Adesso le trasmetto un mio ricordo terrificante che è venuto proprio in mente. Dunque, il più sfortunato dei miei compagnucci di scuola era un ragazzo proveniente da una famiglia veneta, che faceva parte dei veneti che erano andati in Libia, rimandati in Libia, negli anni, primi anni 60 erano tornati e stavano, colonizzavano una parte della zona dove abitavo io. Questo signore veneto, integerrimo, era anche il sacrestano del mio paese. E il figlio, quando il padre veniva a parlare con i maestri a scuola, i maestri attualmente c'erano delle piccolissime mancanze, lo faceva inginocchiare davanti a tutta la classe, lo schiaffeggiava, lo umiliava davanti a noi. Ricordo ancora le orecchie rosse, violacee per la vergogna di questo ragazzino, che aveva la sola colpa di essere figlio del sacrestano, non se l'era mica scelto. Orfeo. Buongiorno, signor Nicoletti. Eccomi. La mia esperienza era del ricordo del battipanni di plastica. Ah, ecco, il battipanni. C'è quello e non c'era modo di distruggerlo. Io sono della generazione di quello di Vimini, che faceva più male. Eh no, ma si rompeva, si poteva rompere quello di Vimini. Infatti lo cambiò mia mamma, perché diciamo il maresciallo di casa era mia madre, non mio padre. Eravamo con 2 sorelle e a quel battipanni di plastica che esiste ancora in casa di mia mamma, che c'era ancora, e non siamo mai riusciti a tagliarlo, a romperlo, perché quando poi le marachelle erano abbastanza grosse era lascia bei segni il battipanni comunque. Sì, però soltanto per un paio di giorni. Non lasciava chissà che cosa. Io ero il bambino di famiglia che dopo le 48 ore diventano lesioni gravi Ah, diceva che si gonfiava un po' la pelle e poi andava via. Ma il problema era un altro, che io ero il bambino di famiglia, il maschietto, e le due sorelline. Quindi quando succedeva qualcosa, non è che la colpa di chi era, era implicito che era la mia la colpa, di qualunque cosa. E vabbè, cominciò a sentire la responsabilità di essere uomo, che non è da poco. Gabriella, buongiorno. Sono io, buongiorno. Telefono perché voglio ringraziarla perché mi fa compagnia tutti i giorni. Sì, grazie. Con cosa veniva picchiata lei da piccola? Ecco, guardi, io sono un po' una vittima della prima globalizzazione, sì. Perché mia mamma aveva una sorella che viveva in Francia e quindi insomma si sentivano spesso per educare i figli, e quindi ci arrivava a casa il famoso Martinet, si chiamava. Sì. E che era un bastone con delle striscioline di cuoio. Sì, ma si usa nelle sessioni sadomasochistiche, non è che si usa per picchiare i figli. Ecco, io adesso questo non lo anche un manico anatomico apposta. Non l'ambiente. Però insomma 40 anni fa, 50, il Martinet era il nostro terrore. Cioè, quindi sua madre ha importato dalla Francia un oggetto sadomasochistico per picchiare i figli. Io della sorella. No, ma lo usavano per i bambini e io adesso sì. Queste cose non le so perché appunto. C'erano anche degli oggetti che si vendevano in quegli anni che dicevano cura le imperfezioni del volto per le rughe del volto, e veniva venduto per quell'uso, ma le assicuro che sono oggetti quelli che non si usano per picchiare, nessuno costruisce un oggetto per picchiare i bambini. Uno scudiscio con cinghie di cuoio è un oggetto che usano gli adulti per loro particolari predilezioni. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Andavamo a scuola, le maestre, i professori, tutti ciò che davano l'esempio a noi, gli dovevamo dare retta, e la mattina dovevamo sapere lezione. E c'era un certo maestro Pochetti, de Palombara, che balostava per davvero. Ci diceva: chi non sa la lezione venga a prendere le batteccate. Se ci andavi te ne dava 10. Se non ci andavi, quelli che non ci erano andati, chiedeva a tutti la lezione. Se non la sapevi, anziché 10, ne viai 20. Non è come oggi che si portavano i taschini pieni di libri, che i taschini ricoscavano un sacco di soldi, 20, 30 libri, i colori così. Questi sono dei ricordi presi appunto dalla banca della memoria di signori che ricordano anche loro di essere stati fortemente picchiati da piccoli. In questo interludio delle informazioni del traffico sono andato a cercare attraverso Google cosa sia questo Martinet, perché forse potevo sbagliarmi. Sì, concordo con quello che ho detto prima, è il gatto a nove code, chiamato come vuoi, è uno scudiscio, si trova nei siti che vendono materiale sadomaso. Viene istintivo, visto che è un argomento molto all'onore delle cronache, probabilmente dalle nostre parti questa affezione improvvisa, esagerata, per rapporti intimi e amorosi basati sulla tortura, sulla sopraffazione, sui giochi sadomasochistici, probabilmente deriva da una sorta di mancanza di genitori che correggono, o da un esagerato uso di strumenti di tortura in fanciullezza, che anche da grandi porta ad avere la nostalgia di questi oggetti. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, salve dottor Nicoletti. Ho chiamato perché mi ha ricordato i primi anni di scuola delle elementari. Adesso, a proposito di strumenti di tortura, mi ricordo anche i miei genitori, i genitori di molti miei amici, usavano la ruschia, quella che da noi si chiama ruschia. Che cos'è la ruschia in italiano? La ruschia era la parte finale di un ramo di tamerice che normalmente aveva uno, almeno due o tre, come la pioggia nel pineto, tamerici. Sì. Però aveva normalmente due o tre parti finali, quindi lasciavano tre o quattro che si chiamano in dialetto teghe, che sarebbero le righe che lasciano delle frustate ogni volta. Sì, una specie di forchettone di legno naturale che lasciava dei bei solchi sulla pelle. Dei bei solchi. E invece a scuola la nostra maestra di prima elementare, che era l'ultimo anno di insegnamento, poi l'anno dopo andò in pensione, aveva una sessantina, quindi aveva insegnato al tempo del fascismo, eccetera, eccetera, si portava un vero e proprio kit, perché portava un panno dentro la borsa con dentro o il gran turco o i ceci, a seconda. Sì, per fare inginocchiare, naturalmente. Per fare inginocchiare dietro la lavagna. Lo apriva dietro la lavagna, stendeva bene bene tutto quello che c'era dentro questo panno, e poi sapeva già che durante la mattinata, insomma, qualcuno ci andava sopra. Anche chi usava molto più semplicemente il brecciolino, quello lì per i giardinetti, che c'è altrettanto male. Il brecciolino, sì. Adesso francamente il brecciolino non me lo ricordo. No, io ricordo sì. Sicuro, scuro i ceci e il gran turco. Non è sempre stagione di gran turco, non è come oggi c'è il mais transgenico. Esatto. Allora gran turco c'era una certa stagione, poi dopo non funzionava più. Poi dopo non c'era più. E poi aveva la famosa canna lunga, siccome era anziana e non si poteva muovere, aveva fatto le due file centrali davanti alla cattedra, dove c'erano quelli che secondo lei erano i più perseguibili, i più colpibili, che erano i più soggetti, tra i quali c'ero anch'io che ero proprio nel banco davanti, e usava questa canna che arrivava fino al terzo banco dietro, e normalmente quando cercava di prendere quello davanti, se quello davanti si abbassava, prendeva quello dietro. È un classico, l'abbassamento delle prime file provoca... Sì, è una specie di canna da pesca telescopica, diciamo, man mano che la maestra invecchiava ha bisogno di una prolunga per non alzarsi. Però questo era normale, vede, noi lo stiamo raccontando come raccontassimo facezie, ma vorrei far capire ai giovani che ci ascoltano che è esattamente così. Mi stanno arrivando messaggi, molti non li mando manco, perché picchiati con il nerbo di bue, che è una delle cose più deleterie, stacca la pelle, è una cosa durissima, e anche quello è usato come strumento di correzione. Max, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma io ricordo due punizioni terribili alla scuola materna. Quanti anni ha lei, Max? 41. Ecco, vedi, sono sempre più giovani i ricordi di botte prese a scuola o in casa, quindi non è che poi siamo così lontani. La prima era consisteva nel... mi chiudevano in uno stanzino completamente buio, chiuso a chiave per diversi minuti, ed era effettivamente pesante. Poi l'altra, che ricordo con terrore, la maestra ci metteva sulle ginocchia, poi tirava fuori un paio di forbicine da manicure e minacciava di tagliarci la lingua davanti agli altri. Ah, questo. Io, tortura psicologica proprio. Sicuramente, un ricordo terribile, però devo dire che... Nemmeno i servizi segreti, deprivazione sensoriale, tortura psicologica, finta fucilazione. Sembra leggere i manuali degli interrogatori dei servizi, delle forze speciali in zona di guerra. Le assicuro però che oggi siamo passati dall'altra parte, cioè oggi alzare la voce nei confronti di un bambino, ma anche di molto più grande, scatena il finimondo, avvocati, eccetera, eccetera. Quindi, c'è un paese che è stato picchiato da un padre perché aveva tolto il telefonino al figlio durante la lezione. Quindi, ecco, quindi secondo me all'epoca probabilmente sì, all'epoca, ecco, 40 anni fa neanche, si esagerava. Però oggi si esagera, al contrario, non so sinceramente se è meglio adesso o forse... Ma noi osserviamo, non ce n'è meglio né peggio, che ci importa? Il mondo ci sopravviverà, osserviamo e guardiamo. Elisabetta. Buongiorno. Lei come è stata picchiata? Io sono Elisabetta e porto il suo cognome, mi fa molto piacere parlare con te Gianluca. Cioè sei mia parente vuoi dire, no? Ah no. Io ho 62 anni, parlo degli anni 50. Ho ricordo di un maestro in quarta elementare di cui tra l'altro porto anche un bellissimo ricordo, perché per me ha rappresentato... Quelle belle cicatrici che ti lasciano tepore lui... No. Lui teneva i sciocchi della legna sotto la cattedra, perché c'era la stufa legna. Ah certo, la stufa legna, sì. E quindi quest'aula fredda, grandissima, confinava tra l'altro con la mia casa. La mia mamma stava di là dalla porta, perché era l'abitazione. Un giorno lui la mattina ci faceva cantare da pensiero, ci narrava dei brani del libro Cuore, era una persona veramente... squisita. Però era nervoso, un giorno, non so, parlavamo, lui tirò fuori un ciocchetto, lo tirò, questo ciocchetto rimbalzò sull'angolo del banco e mi prese in pieno nella testa. Quindi tragedia, carta gialla col sapone, per questo la mia mamma mi sentì piangere, bussò alla porta e si fece avanti. Quindi era casa e bottega, lei c'aveva la mamma dietro il muro della scuola. Bravo, facevo tre passi per entrare in aula e mi ricordo che mi mettevo pure il cappotto per... E come la vide sua madre col ciocco del maestro? La vide normale, non si fece grandi scrupoli, perché era conosciuto, era in gamba, gli voleva bene... E non è che reagì in modo particolare. Non era cattivo così. Non era cattivo, era estremamente... C'aveva il ciocco facile, ecco. E era anche molto moderno, ci insegnava, io ripeto, devo a lui tutto quello che ho fatto nella vita, non lo rinnego mai. Quindi lei con la cioccata si è beccata in testa, in fondo. Presi questa cioccata in testa. Ma ancora ce l'ha il segno, ha lesioni? No, fortunatamente non ce l'ho. Sono quei segni che si cancellano con il tempo. Grazie Elisabetta. Bruno. Bruno. Buongiorno, sono qui. Avanti. Buongiorno, io chiamavo per raccontare di una tecnica particolare che trovo geniale personalmente, che aveva adottato mio maestro degli elementari, si parla di una cinquantina d'anni fa, e per dirimere le controversie, quando spesso accadeva che da bambini si litigava, e consisteva nel prendere i due contendenti, si faceva inginocchiare di fronte a tutta la classe, dopodiché ci prendeva le teste e ci dava una sonora testata uno contro l'altro. Cioè vi sbatteva le teste l'una contro l'altra. Sì, gli assicuro che era una cosa che io mi ricordo... Ma dalla parte del naso che si spezza anche il setto nasale o lateralmente? Dalla parte della fronte. Ah, della fronte, così si creano delle lesioni interne che lasciano segni più profondi. Vabbè, la ringrazio Bruno, vedo che siamo veramente un popolo di picchiatori di figli e gli svedesi probabilmente, non colpendo l'innocente signore di Canosa di Puglia, ma un certo preconcetto che hanno su di noi in fondo ha delle basi fondate. A domani. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.